dando Simón. Bono le sneaker Simón. Bono le sneaker Simón. Bono le sneaker Simón. Bono Simón. Bono. Muovi in piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Bono le sneaker. Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Bono le sneaker Simón. Bono le sneaker Simón. Bono le sneaker Simón. Bono le sneaker Simón. Bono. Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Bono le sneaker. Colleziono, mi emoziono. C'ho l'oggetto, sento il suono. Guardo i titoli, i colori e i loghi. Vedo gli uomini e sento gli sfoghi. Mi piacciono sneakers da corse, da basket, da skate, da tennis, dalla boutique all'ipermarket. Un disco è cultura che sprizza anche quando lo ascolti in sottofondo, quando stai scendo. Il disco è inciso e mi insegna un'amica. C'è qualcosa di mistico e ciò mi intriga. Le scarpe son belle, ne ho tante paia, ma i dischi in cameretta ne ho 5 migliaia. Cercare una canzone, un ago in un pagliaio, come la frase in un libro ce n'è più di un paio. Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi sta girando Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono. Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Buono le sneakers. Are you ready? Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Buono le sneakers Simón. Buono le sneakers Simón. Buono le sneakers Simón. Buono le sneakers Simón. Buono Mi spiace se non sai dei techniques. Mi spiace se non sai del mixer. Mi spiace se ascolti solo quel che capita. Passa al mercatino e valuta. Mi spiace se non sai dei techniques. Mi spiace se non sai del mixer. Mi spiace se ascolti solo quel che capita. Passa al mercatino e valuta. Non spendo mai troppo per un disco, troppo per l'equipaggiamento me ne infischio, neanche troppo per le scarpe ho il completo cessato. Ma se parli di funk sono più interessato. E poi metto le corte, assaggio il volume forte con le superstar. Ascolto Gangstar con le Pump. Ascolto Grand Funk con le K-Swiss. Ascolto Alchemist con le DC. Ascolto SDC e con le Puma States. Gli Ultimate Breaks. Are you ready? Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi sta girando Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono le sneaker Simón. Buono. Muovi i piedi sul suono che esce dagli speakers. I dischi stanno girando Simón. Buono le sneakers.